se solamente soffiso il mio petto, il mio cuore martella. E un rumore sordo lambisce la mia carne. Per il tuo sorriso aperto respiro l'infinita materia del mondo, dove una sera immobile scuote stelle amiche che si accendono per noi, e con foga cerco il tuo seno. Rosa del mare sei tu, la mia rosa del mare, e i tuoi occhi come ostriche sessuali dipingono corridoi da percorrere. E se mi tocchi, servono papaveri rossi e grida di speranza con tenerezza infinita. Abbattono fantasmi nel dubbio. E tu mi tocchi e io resto pieno di te. E tra le luci fime della sera io credo. Bevo nel tuo moto di colomba, giochi col mio cuore. E bella sei, bella sei, sì, bella sei. E tu mi tocchi e il mio sangue come fiume sfiora malinconici pensieri, mentre provo a chiuderti la bocca con un nuovo bacio. Nel tuo moto di colomba giochi col mio cuore. E bella sei, sì, bella sei. E tu mi tocchi, e il mio sangue come fiume sfiora malinconici pensieri, mentre provo a chiuderti la bocca con un nuovo bacio. E tu mi tocchi, e io resto pieno. Io tremo se solamente soffri sul mio petto. Se solamente soffri sul mio petto. Se solamente soffri sul mio petto. Se solamente soffri sul mio petto.